Qual è il segreto per una mediazione internazionale che sia efficace? Dobbiamo riconoscere che a volte i paesi non vogliono essere necessariamente al centro dell'attenzione. Vogliono intervenire in silenzio e noi dobbiamo permetterglielo. Credo che questo sia, ad esempio, il caso dei cinesi, che hanno influenza in alcuni conflitti, ad esempio sono coinvolti in Africa, e hanno influenza in alcuni dei difficili processi in corso. Dobbiamo essere abbastanza sensibili da individuare quale sia il modo migliore per entrare in una certa situazione. Dobbiamo essere abbastanza flessibili da capire come fare. Perché alcuni paesi vogliono aiutare, ma vogliono farlo nel modo che ritengono più opportuno, a seconda della situazione in cui si trovano. Dunque, chi gestisce i processi di mediazione deve avere questo tipo di sensibilità. Voglio enfatizzare l'importanza della sensibilità. Bisogna essere capaci di ascoltare le persone. E poi bisogna avere chiaro dove si vuole arrivare con il processo di pace. Inoltre, un mediatore deve parlare la lingua del paese. Ad un certo punto mi sono trovato a discutere con Kofi Annan sul fatto se uno come me potesse andare in Iraq. E io ho detto no, perché primo non parlo arabo. Poi all'epoca non conoscevo gli attori politici, quindi come avrei potuto aiutare il processo di democratizzazione? Non basta essere bravi, bisogna trovare qualcuno che abbia la competenza. Io posso solo parlare svedese con tre dei leader iracheni che hanno vissuto a Stoccolma. Una delle maggiori vittime di guerra e conflitti è l'Africa. Come vede la situazione attuale? Parlando di Africa, devo dire che sono molto felice per gli investimenti fatti da Cina, Giappone e India nello sviluppo di questo continente. È come un nuovo inizio per questo continente, perché questi investimenti finanziano infrastrutture che facilitano la sua crescita economica. Certo, sono conscio del fatto che molti sono critici su questo punto. Io ho cominciato la mia carriera proprio in Africa e sono ancora coinvolto nel comitato del M.O. Ibrahim Foundation Prize insieme a Kofi Annan per fare raccomandazioni alle varie fondazioni. Credo che i primi diritti umani siano il cibo, un'istruzione di base e la salute. È su questa base che si comincia a sviluppare la propria economia. La mia risposta quando il resto dei paesi occidentali sollevano critiche è questa. Anche voi che avete le stesse opportunità di investire, tirate fuori gli stessi soldi. Che progetti sta seguendo al momento? Speriamo di siglare un programma finanziato dalla Banca Mondiale con 200 milioni di dollari per l'Indonesia, che darà lavoro a ragazzi dai 15 ai 22 anni. Un training basato direttamente sui bisogni del settore privato. Parte di loro saranno formati per andare a lavorare in altri paesi. Qualcuno andrà a lavorare in Giappone perché c'è bisogno di manodopera. L'idea è di iniziare con il programma all'inizio del prossimo anno e nei prossimi 4 anni dare lavoro a 700.000 giovani con l'obiettivo di rendere alcuni di loro degli imprenditori. Inoltre, a giugno a Doha, in Qatar, abbiamo avuto il primo incontro del board di una nuova organizzazione chiamata CILATECH, che è incentrata sul fornire lo stesso tipo di opportunità nel Medio Oriente ed è stata finanziata dall'Emiro del Qatar con 100 milioni di dollari. Seed money came from the Emir of Qatar who came 100 million dollars for that.